Incontri di Gianfranco Fabi. Con l'ouverture dalle nozze di Figaro di Mozart iniziamo l'incontro di oggi con Marco Nado. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica Marco Nado. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. È la nozze di Figaro di Mozart, ma non solo, perché questo motivo è anche, Marco Nado? Di un film che in gran parte è basato sulla finanza, che è Una poltrona per due, del grande John Landis, regista dei Blues Brothers. Parliamo di finanza. Marco Nado insegna diritto, economia dei mercati finanziari alla Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Ha scritto peraltro anche, anzi ha fatto un'intervista che è diventata un libro, Finanza senza paracadute, che è proprio nella nuova collana della Voce.info, che nei giorni scorsi ha festeggiato i 10 anni di attività, questo sito web ideato, guidato da Tito Boeri, di cui Marco Nado è stato fin dall'inizio uno dei collaboratori. Quindi un grande esperto di finanza, è stato anche commissario della Consob per alcuni anni, e direi che la finanza è nel bene, ma forse un po' più nel male in questo periodo, sulle prime pagine di tutti i giornali, non solo di quelli economici. Come mai? Il titolo del libro, Finanza senza paracadute, che è un'idea dell'intervistatore Sergio Levi, è anche profetico, non è soltanto la descrizione di quello che abbiamo scoperto da quando è scoppiata la crisi finanziaria. Quello che stiamo scoprendo in questi giorni sul fatto che le più grandi banche internazionali, a cominciare da Barclays, ma solo perché Barclays è quella per cui l'istruttore è stata chiusa prima, ma ce ne sono altre di altrettanto importanti, bene, che queste grandi banche abbiano manipolato la formazione di un prezzo così importante come il LIBOR, che è il tasso cui le banche prestano ad altre banche e che è il tasso di riferimento per trilioni di operazioni per le imprese, per le famiglie di tutto il mondo, eccetera, è una scoperta quantomeno sconvolgente. Ecco, quindi che esiste una speculazione che non è solo una speculazione che opera nel mercato, ma opera anche contro il mercato. Esatto, perché qui appunto non stiamo parlando di una speculazione che parte quasi sempre, molto spesso, da presupposti economici più o meno razionali. Qui stiamo parlando di manipolazione, cioè di adulterazione, cioè è come se qualcuno avesse inquinato un bene pubblico, è come se qualcuno avesse adulterato un cibo, e tra l'altro non il foie gras che mangiano certo in pochi, ma il latte, perché ripeto, il LIBOR è un riferimento poi per tutti, trilioni, anche per tutte le operazioni finanziarie, esatto, dei mutui, prestiti e così via. Quindi ecco, una situazione di finanza senza paracadute è ancora più complessa, perché appunto magari andando in tram il paracadute non serve, ma vuol dire che stiamo viaggiando a quote in cui il paracadute servirebbe. Che paracadute dovrebbe esserci? Più regole, più controlli, oppure insieme a questo anche una diversa esigenza etica da parte degli operatori della finanza? Ma credo tutte queste cose insieme. Prima di tutto le regole sono importanti. In molti aspetti della grande finanza internazionale le regole sono state annunciate ma non ancora realizzate. Ma comunque non bisogna avere, come posso dire, fiducia, riporre fiducia soltanto nelle regole, perché purtroppo le regole sono condizione necessaria ma non anche sufficiente. Perché le regole dovrebbero aiutare il mercato a funzionare, non imbrigliare le cose. Esattamente, esattamente. Però qui il secondo punto, abbiamo sbagliato a pensare che i mercati potessero da sole arrivare a condizioni di equilibrio, comunque a condizioni in cui si potesse salvaguardare l'interesse di tutti. E ancora una volta il caso dell'LIBOR o LIBOR, insomma, come si vuol dire, è indicativo. Pensiamo che la formazione del prezzo nei mercati azionari, nei mercati obbligazionari regolamentati, è oggetto di una serie di regole molto precise, severe, eccetera, che funzionano bene, direi, da qualche decina d'anni, certo, per non dire da qualche secolo. Nel caso dell'IBOR ci si è basati sulla fiducia che le grandi banche non potessero che dire la verità, purtroppo, è che il mercato quindi... Cioè che fossero non solo troppo grandi per non fallire, ma anche troppo grandi per non mentire. Esattamente, troppo grandi per mentire. Per mentire, invece, infatti. Invece era proprio... quindi voglio dire... bisognerebbe anche applicare a tanti settori in cui si è lasciato completa libertà alle parti, non dico un sistema incessante di regole, eccetera, però le regole del gioco che, ripeto, abbiamo applicato per una cosa privata che più privata non si può, come i mercati di borsa. Ecco, lei segue da molti anni, non diciamo l'età, ma sicuramente da qualche decennio. Grazie, apprezzo la delicatezza. Però da almeno 40 anni, diciamo, da fin da giovane ha seguito il sistema finanziario, i problemi finanziari. Ecco, quando c'è stata la svolta, in fondo, in questi ultimi 40 anni, che ha portato alla situazione che stiamo vivendo dal 2008 ad oggi? Credo che la svolta fondamentale sia avvenuta fra gli anni 80 e 90, quando per una serie di motivi la globalizzazione, tutti nobili, insomma, certo, tutti importanti, la globalizzazione dei mercati, l'innovazione tecnologica e quindi la riduzione drastica del costo di trattamento delle operazioni, delle informazioni, le banche hanno potuto ampliare enormemente le loro operazioni sui mercati finanziari e hanno trovato fonti di guadagno naturalmente altrettanto legittime. Il problema è che ne sono due. Uno quantitativo: la finanza è cresciuta troppo come finanza, come credito. Infatti ad oggi tutti paghiamo un eccesso di debito che non è soltanto nel settore pubblico, certo. In Spagna è anche un eccesso di sui debiti immobiliari, privato, certo. In America lo stesso e così via. E questo è stato il primo problema puramente quantitativo, e poi è stato un problema qualitativo, e cioè di crescita eccessivamente opaca, delle forme opache di finanza e delle forme capaci di generare instabilità nel mercato. E non appena la crisi finanziaria è esplosa, queste cose hanno fatto crollare, rischiato di far crollare, sì, pericolosamente il castello di carta. Noi stiamo ancora, se possiamo applicare l'analogia del terremoto, siamo sulle scosse di assestamento del terremoto, della prima scossa che è cominciata quattro anni fa ormai. Ecco. Beh, infatti, peraltro, anche la risposta a questa prima scossa, c'è stato il fallimento di Lehman Brothers, però lei per esempio nell'intervista dice questo fallimento è stato l'unico, poi dopo si è quasi impedito alle banche di fallire, e quindi in questo senso sono anche un po' distorte le regole del mercato. C'è stato quell'azzardo morale che a questo punto ha provocato, certamente, un allungamento della crisi. Certo. E qui finisce la possibilità di applicare l'analogia col terremoto, perché il terremoto è una cosa assolutamente esterna e non controllabile. Certo. Qui per evitare appunto che il terremoto diventasse peggiore si è deciso di non far fallire più nessuno, anche questa è una scelta assolutamente comprensibile, solo che in quel momento era anche necessario far passare una serie di regole come contropartita alle grandi, certo, i grandi sussidi che le banche ricevevano. Qualcuno disse in America: bisogna cambiare la legge, l'ordinamento, insomma, e i controlli fin tanto che c'è il terrore negli occhi dei banchieri. Purtroppo quel momento è passato. Ecco, però in Europa qualcosa si è fatto, si sono ristrette per esempio le regole patrimoniali per le banche. Qualcuno dice che hanno apportato più problemi che non soluzioni. Qui credo che, insomma, poi difficile entrare in questa sede nel merito delle singole. Certo. Il problema è che sono state fatte alcune cose, quelle che forse erano anche più facili da realizzare, perché in particolare questo, perché apparentemente spostava il peso sul mercato, portava le banche ad andare sul mercato per emettere nuovo capitale, ma non sono state fatte le altre cose che erano in grado di limitare i comportamenti pericolosi, non solo come non solo tanto il caso di dicevo prima dell'Aibor, ci sono i casi della più grande banca commerciale americana, che è JP Morgan Chase, che ha dovuto registrare 9 miliardi di perdite, non per il solito trader infedele, che è il solito capo espiatorio, certo, da libro di Malossène, ma dentro nel cuore degli investimenti, certo, insomma, ecco, quindi. Ecco, quindi in questo senso siamo ancora sull'orlo del cratere, sul porto della finanza. Poi ne parleremo nella seconda parte, ma per dare un tono, siamo ancora di fronte a un pericolo che c'è, che resta. Poi vediamo come risolverlo. Certo, purtroppo sì. Purtroppo sì, grazie. Non siamo molto ottimisti, però già vedere la realtà è sicuramente fare un passo avanti per trovare le soluzioni giuste per risolverla. Ancora con la musica di Mozart, riprendiamo il nostro colloquio con Marco Onado, docente di diritto, economia e mercati finanziari alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, è stato commissario consul dal 93 al 98, abbiamo fatto un esame invero un po' pessimistico della situazione del mercato finanziario, della finanza globale. Tra l'altro abbiamo ricordato come Marco Onado abbia scritto il libro Finanza senza paracadute, un'intervista che è a cura di Sergio Levi, che è nella collana La Voce Info, che proprio in questi giorni festeggia i propri 10 anni di vita. Una collana che La Voce Info è un sito internet, ma questa collana fatta di libri è edita dal Mulino. Ecco, in questo libro si passano un po' in rassegna tutti i temi caldi della crisi. Abbiamo parlato nella prima parte del fatto che ci si vogliono delle regole nuove, delle regole più stringenti, che però possano permettere al mercato di funzionare e che poi richiamino anche una maggiore responsabilità da parte del sistema finanziario, di chi opera nella finanza. Chi opera nella finanza, professor Onado, forse ha avuto molte, non solo tante illusioni, ma anche molti effetti concreti. Abbiamo visto anche chi è uscito da JP Morgan dopo aver creato il disastro che ha creato, ha avuto una liquidazione non solo principesca, ma regale, direi anzi imperiale. Hanno avuto degli stipendi, dei bonus, delle stock option, cioè chi ha lavorato nella finanza ha ricevuto dei compensi al di fuori di ogni logica, possiamo dirlo? Assolutamente, assolutamente. Ma questo quindi ha portato anche a far sì che la finanza diventasse una finanza speculativa, portasse a fare operazioni nel breve, nel brevissimo termine. Ecco, forse non so se cominciare dalla fine, porre dei limiti agli stipendi e ai compensi, però qualcosa forse andrebbe fatto. Questo è uno dei settori in cui qualcosa è stato fatto a onor del vero. I casi che lei ha citato sono tutti casi importanti e anche un po' sconvolgenti, insomma, no? Royal Bank of Scotland è una banca che è praticamente fallita, è posseduta per l'80 e non so più quanto per cento dal governo inglese, certo, dal governo di Sua Maestà Britannica, e il presidente che l'aveva così saggiamente amministrata è uscito con un compenso plurimilionario che si è guardato bene dal restituire in tutto in parte, facendosi forza di un contratto regolarmente sottoscritto dalle parti. L'unica sanzione è stata quella che gli hanno tolto il titolo di baronetto. Perché forse l'ha fatto volentieri. La regina era un filino incupita, certo, e quindi ha preso questa nossa. In generale il caso si chiama Godwin. Il caso di Godwin è uno dei casi più eclatanti, non l'unico, degli eccessi della finanza degli anni 90, sì, o dei primi decenni di questo secolo. che poi avevano anche come posso dire, uno specchio negli elevatissimi tassi di profitto delle società che erano facevano apparentemente felici gli azionisti, quelli che poi hanno perso tutti i soldi, come certo. appunto nel caso di Royal Bank of Scotland, con tassi di remunerazione del capitale che erano a doppia cifra e la prima cifra era un 2, molto spesso. È stato un grande caso di profitti che erano puri miraggi, perché certo. la finanza è fatta di carta e molto più che nell'industria è facile, come posso dire, rappresentare contabilmente senza falsificare certo. dei profitti che poi non si materializzano. Certo, una finanza delle illusioni che però si è materializzata per qualcuno. Ecco, e qualcuno invece che ovviamente ci ha marciato. Quelli anche, diciamo, il problema di quelli che ci hanno marciato non è però soltanto del top management, cioè degli alti dirigenti, tipo l'amministratore delegato. Il fatto è che la finanza aveva prodotto guadagni eccessivi anche per tutta una serie di persone a medio e basso livello, i trader sui mercati, certo. eccetera, che percepivano compensi sotto forma di bonus pagabili annualmente molto alti. Io dico sempre che quello che mi stupiva e un po' mi indignava erano non solo gli N milioni dati all'amministratore delegato, ma il milione di dollari dato a centinaia di operatori, certo. Ecco, ma in questa prospettiva si può indubbiamente pensare a mettere dei limiti alle remunerazioni, ma quell'altro provvedimento chiamato Tobin Tax, mettere una tassa sulle transazioni finanziarie, sarebbe una soluzione? Io ho sempre dichiarato il mio favore per questa misura. Forse non è sufficiente per porre un freno agli eccessi della finanza. Però, come ha detto un importante studio del Fondo Monetario redatto per il G20, si badi, quindi non una cosa, si potrebbero utilizzare i proventi della Tobin Tax per costituire il fondo per finanziare per le banche in difficoltà, certo. Senza dover, come sta succedendo oggi, dover ricorrere ai fondi pubblici e quindi che le tasse dei poveri finanziano i ricchi, in fondo. Esattamente, almeno che le tasse dei ricchi finanziano i ricchi. Passando a un altro argomento, ma Marco Nodo sarebbe favorevole a porre dei limiti ai compensi dei calciatori? Assolutamente sì, perché... Ma a tutti, anche quelli del Milan? Anche quelli del Milan, qui il conflitto di interessi è fortissimo, però le regole hanno da essere applicate per tutti. La passione per il calcio è uguale a quella per la finanza, o c'è qualcosa di diverso? Diciamo che sono due cose, sicuramente viene prima, perché... Quella del calcio. E quindi, ecco, ma però queste società di calcio che vanno in borsa forse sono una nota un po' stonata. Guardi, sicuramente è una cosa da evitare. Le dirò di più, un fatto appunto che si ricollega al periodo in cui ero commissario Consob. Quando si quotò la prima società di calcio, cercammo di fare il possibile per evitarlo, perché eravamo perfettamente consapevoli del fatto che una società di calcio è intrinsecamente invalutabile, inadatta al mercato di borsa, se non altro per la sensibilità alle notizie. Se pensi il tizio non rinnova il contratto, lo rinnova, il valore della società cambia dall'oggi al domani. Certo. Quindi, per tutta una serie di cose. Il problema è che l'ammissione al listino è un atto di mercato e quindi il regolatore non può dire tu sei... Sì, anche perché è un'attività lecita in fondo il gioco del calcio. Esattamente, e l'investimento nelle azioni di calcio è un atto fra adulti consenzienti, insomma, no? Però io sono profondamente convinto che non siano ci sia una incompatibilità. Ecco, forse quando eravamo giovani si diceva spesso giocare in borsa, questo gioco, la borsa come gioco c'ha una certa consonanza col gioco del calcio, però sono sì, due cose non è educativo, ho sempre non mi è mai piaciuta questa espressione. Indubbiamente. No, infatti, per fortuna si usa meno, anche se molto spesso la borsa è rimasta un gioco. Come ci si trova ad essere arbitri in un gioco finanziario? Ricordavamo appunto il commissario della Consob, quindi un arbitro del gioco finanziario. Forse la Consob dovrebbe avere più poteri? No, non è una questione di poteri di legge in senso stretto. Forse lo era ai tempi in cui sono diventato commissario io, però certo dopo il grande passo in avanti che si è fatto con il testo unico della finanza non ci sono differenze sostanziali fra quello che può fare una Consob o un'altra autorità. Il problema poi sono le risorse, certo. Anche forse la disponibilità di persone, certo, che siano in grado di capire la complessità della finanza di oggi. Ecco, ci avviamo verso la conclusione, proprio sulla complessità della finanza. Cosa direbbe a un giovane che vuole entrare alla Bocconi e che vuole occuparsi di finanza? Le posso dire quello che dico ai miei giovani che sono già entrati. Io cerco, e mi sembra che i ragazzi lo apprezzino, di instillare il dubbio, perché credo che gli eccessi della finanza derivano anche da un eccesso di fiducia nel mercato, di fiducia nella capacità dei vari operatori di fare contemporaneamente gli interessi propri ma anche gli interessi degli altri. Purtroppo così non è. La finanza ha, come posso dire, gli elementi di squilibrio innato, e quindi bisogna guardare con avere il beneficio del dubbio. Del dubbio e il senso del rischio e della serietà poi di fare cose che molto spesso si usano in finanza dei soldi degli altri e bisogna usarli come se fossero i propri. Esattamente. Grazie mille, grazie a Marco Nado di essere stato con noi. Ho cercato di entrare in questo labirinto della finanza, certamente complesso, però indispensabile, anche perché comunque la finanza è qualcosa che ha garantito la crescita, la ricchezza nel male ma anche nel bene della nostra società. Grazie quindi a Marco Nado di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Franco Piantanide in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica, all'appuntamento con Incontri e per domenica prossima.